La risposta per quanto riguarda il Ministero degli Esteri, il Ministro degli Esteri è un forte impulso all'internazionalizzazione di questo settore, un settore che già marcatamente orientato verso l'estero, perché il senso di capacità innovativa, di ricerca anche che rappresenta questo settore, ma soprattutto di espressione di un gusto e di un design che è straordinariamente affermato. Su alcuni mercati ci sono state negli ultimi anni, a causa soprattutto della crisi finanziaria che abbiamo subito dal 2008, alcune flessioni, ma mi sembra che su altri ci sia invece una dinamica molto attiva e molto aperta. Il senso della nostra capacità esportativa in tutto il mondo, a fronte di una domanda interna in Italia ancora stagnante, anzi che si conclude purtroppo con una flessione di PIL ancora quest'anno, abbiamo una realtà esterna della nostra economia che è estremamente vitale, che dimostra una crescita esportativa ancora nel 2011 attorno al 10% e per quest'anno un'ulteriore crescita. Abbiamo dei mercati nel settore delle costruzioni, che collegato strettamente a quello che viene qui rappresentato dalla Federlegno, una svolta notevole. In America Latina, ad esempio, il mondo italiano delle costruzioni ha aumentato il suo fatturato del 30% nell'ultimo anno. Ho presentato un rapporto col presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili qualche giorno fa alla Farnesina e i dati illustrati nel rapporto sono estremamente incoraggianti per quanto riguarda il settore esportativo: 58 miliardi di fatturato complessivo, 38 miliardi di ordini, un surplus crescente. Ecco, menziono questo settore perché mi sembra quello nell'economia italiana, nei comparti produttivi, quello più direttamente collegato all'attività che viene rappresentata qui, ma mi auguro che gli stessi indici di crescita sul mercato internazionale siano riscontrabili, perlomeno lo possano diventare presto, anche per questo mondo aziendale che viene rappresentato oggi a Milano.